cioè la sera quando guardo la televisione, io ho una panchina di fronte il televisore e mi siedo. Qua fra me e lui non sono sicuramente io, al massimo sarà lui. Se uno che è squalificato per omessa denuncia viene a parlare di moralità a me, significa che è finito il mondo. Ibrahimovic non lo sento, io non l'ho più chiamato, l'ho chiamato qualche volta e non mi ha risposto, sento tutti gli altri ma non Ibra. Tutti convocati di Carlo Genta. Quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Buon pomeriggio, buon anno a tutti. Con il 2013 siamo riusciti a convocare, non voi, voi state lì bravi ad ascoltare, siamo riusciti a convocare la signorina Gaia Piccardi, super inviata del Corriere della Sera, che adesso è qui con me. Ciao Gaia. Che onore, ciao Carlo. Ci eravamo lasciati l'ultima volta parlando di tennis a Milano e di quanto possa funzionare la formula fin troppo facile di due tenniste italiane molto brave sul tetto del mondo per il doppio e di due gnocche come Sharapova. Questa era stata la tua sintesi, sì. Questa è stata peraltro la mia corretta sintesi. Sharapova e Ivanovic. E non, hai visto che non mi ero sbagliato, quel dì il forum era pieno. Era per pieno. Per uno spettacolo dimenticabile. Assolutamente sì. Una formula che diciamo già al suo secondo anno segna il passo. Bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. Ma perché se funziona? Ma perché intanto dalle donne ormai non tiri fuori più niente, nel senso che una volta che hai invitato le Williams, che sono le due superstar, e le due italiane più forti della stagione, dubito che l'anno prossimo avremo due italiane esplose dal nulla in grado di rilevare Errani e Vinci. Le belle le hai invitate, tocca pensare a qualcos'altro, ma le idee non mancano. Un giorno mi chiama un ascoltatore e dice: abbiamo visto questa esibizione, però il torneo di Milano, discorso che abbiamo già fatto, ci manca. Come diceva quando ero piccolo il bibitaio del Paralido, Gever la Muneda, gli andavi a chiedere la Coca-Cola e lui ti diceva Gever la Muneda, ci vogliono i soldini. Non è cambiato niente da allora, che ce ne vogliono ancora di più. E ce ne possono essere secondo te in futuro per riportare un torneo ATP a Milano, ma non un torneo che porti Carneadi, un torneo che porti superstar. Ma senti, io in queste circostanze, sia l'anno scorso che quest'anno, di fronte al forum pieno, avverto un entusiasmo da parte di certi amministratori locali, un po', come dire, dopato dalla gioia del momento. Sì. Per cui ci sono dei progetti in ballo sulla carta, tipo riportare il torneo a Milano, portare a Milano il master maschile una volta che sarà scaduto il contratto con Londra, perché il master adesso è a Londra fino al 2015. C'è una grandissima speranza che il traino dell'Expo si porti dietro voglia di fare e soprattutto, come dici tu, soldi. Una volta che hai soldi, se li trovi, o un munifico sponsor o tutto l'indotto dell'Expo, se ne avrai, con i soldi in mano puoi fare tante cose, puoi anche portare il master a Milano. Diciamo una cosa che nessuno ha mai sentito, con i soldi si può fare tutto. Senti, ma già che siamo in argomento, sentiamo le due ragazze che comunque nel 2012 ci hanno portato sul tetto del mondo, Errani e Vinci. Io ci provo, questo è sicuramente il miglior anno della mia vita, sto giocando bene, cerco di dare il massimo sempre, questo è sicuramente un mio pregio. No, deve prima di tutto riposarsi qualche giorno, poi cercare di essere sempre concentrati, cercare di trovare motivazioni nuove che ti possano comunque aiutare a combattere anche un po' la stanchezza. Cioè, ovviamente si parla di una partita di tennis, rapporto che... Io spero che non cambi niente, ovviamente ognuno fa la propria strada, però il rapporto e l'amicizia che ci lega non deve assolutamente cambiare se vince uno, se vince l'altro, assolutamente no, cioè, l'amicizia va di là. Devo dirti che sono contenta perché comunque anche lei è arrivata nei quarti di finale e sta facendo una grande stagione. Il fatto che sia arrivata io sono contenta. Questo è il tabellone, io non discuto, meglio giocare con quello, ormai si gioca contro, punto e basta. Sono giusto effetti sonori, voci d'archivio naturalmente, giusto per far sentire le voci di due ragazze che sono state grandi protagoniste di questa stagione. Hanno dato tutto, hanno toccato il top secondo te? Quest'anno hanno dato anche di più di tutto, sì. Perché sia Sara che Roberta, insomma diciamocelo, nessuno a inizio dell'anno si aspettava che la numero 65 del mondo potesse salire 6 facendo quello che ha fatto, finale a Parigi, semifinale a US Open. Continuiamo da anni a dire che il tennis femminile vive un momento un po' così, per cui nessuna domina e quindi chi ha voglia di lavorare, chi è determinata può fare tutto. E quest'anno l'hanno confermato. D'altronde, se non c'è una dominatrice, beh, chiaro, peggio. Chiunque può inserirsi, esatto. Chiunque può inserirsi. La dominatrice è ancora la vecchia Serena Williams. Quando ha voglia, quando ha voglia, quando sta bene, quando sta quando in piedi. Quando ha voglia, con la mano sinistra. Con la mano sinistra spacca ancora tutto. Se ti dico Pennetta e Schiavone, tu cosa dici? Beh, mi scende una lacrimuccia. Perché? Perché Francesca Schiavone a Parigi, quando vinse battendo la Stosur, devo dire che mi ha dato uno dei brividi più intensi della mia vita professionale, insieme a qualche momento olimpico. E Flavia, a parte essere di una simpatia travolgente, insomma, ci ha fatto scrivere delle pagine divertenti anche lei. Prima top 10, quarti di finale a US Open, l'anno scorso semifinale sfiorata per un pelo, insomma, poi tutte le vicende personali, sentimentali, insomma, Flavia sono pagine di letteratura sportiva, No, ma seriamente? No, ma è così. Ti faccio sentire invece un'altra voce che non c'entra con le ragazze, ma è sempre relativa al tennis. I'm getting closer. Right, I'm going to try this and it's not going to be easy. Fuori lì a Londra, a Wimbledon, sì. Gaia Picardi. Se è un quiz, so la risposta. Beh, chi è questo? questo è un momento straziante. È Murray che perde la finale di Wimbledon e... Ero lì, pur non essendo inglese, né scozzese, né monarchica, impossibile non commuoversi, c'era un'emozione su quel campo, una mestizia. E poi pensare che un mese dopo avrebbe vinto l'oro olimpico, devo dire in quel momento non ci avrei scommesso 5 penny. Ma io invece, che sono un po' più cinico, dico magnifico perdente. Magnifico perdente anche dopo che ha vinto US Open? Ma forse con gli US Open si è tolto la scimmia dalla spalla. Fino ad allora e per l'intera sua carriera, un magnifico perdente. Assolutamente. Adesso vediamo come, insomma, come sta Nadal, perché questa è la grande incognita. Djokovic è un tennista che a me piace da morire. Roger Federer, sua maestà, insomma, agli anni che ha, Murray può essere, dopo essersi tolto il gorilla, magari il dominatore delle prossime stagioni insieme a Djokovic, perché secondo me rimane quello con più talento. Assolutamente più, sì. Però guarda cattiveria. Che quando ha vinto la medaglia d'oro olimpica Murray a Londra, girava questa battutaccia: ha vinto il Wimbledon sbagliato, perché si giocava sugli stessi campi. Però poi ci ha dimostrato che quello è stato veramente il suo giro di boa a tutti i livelli, insomma, emotivo, psicologico. Sì, certo. E a New York l'ha dimostrato. E New York l'ha dimostrato. Chiara Piccardi, bella, ma chissà quante volte l'hai sentita a Londra? Sai, zero. Come zero? L'inno delle Olimpiadi. Muse. Non so dov'ero, ma non l'ho mai Survival sentita. Muse. Ho sentito mai... inni di ogni nazione, ma questo no. Ma dai. Bella però. Un altro che. To the whole human race. Yes, I am prepared to stay alive. I won't forgive. Vengeance is mine. Chiesto agli ascoltatori, conducendo un programma tutti i giorni ed essendo qui, di farmi avere una maglietta, quella dell'uomo incappucciato che si porta via uno dei cerchi olimpici. Mi piaceva da morire. Sì, bella, no? Bella. Contro ogni merchandising, contro ogni... Che nasceva come murales. Nasceva esattamente come murales in non ricordo quale città britannica. Sì, sì. Oh, secondo te me l'hanno portata? Ma dovevi dirlo a me, scusa. Lo so, di te potevo fidarmi. Tu cosa ti sei portata dalle Olimpiadi? Di materiale credo poco, se non qualche pin come al solito. Come emozioni qualcosina, ma devo dirti niente di travolgente. Cioè no. È stata un'Olimpiade un po' fredda dal mio punto di vista. E poi con molto déjà vu, cioè i mostri si sono ripetuti, Bolt, Phelps in piscina, però quello che avevano fatto a Pechino... Era qualcosa di nuovo. Eh sì. Era qualcosa di nuovo e di diverso e nessuna stella emergente si è fatta vedere in questo panorama. E le stelle che dovevano brillare si sono inabissate, dal nostro punto di vista, vedi la Pellegrini, vedi le grandi vecchie, diciamo, Sensini, idem, a cui nessuno chiedeva miracoli, per carità, però è stata un'Olimpiade così della medietà, secondo me, soprattutto per quanto ci riguarda, a cui il caso Schwarzer, che io continuo a definire un caso umano prima che un caso di doping. Perché? Beh, per come è maturato, per come... Perché era quello di un ragazzo che non ce la faceva più, no? Per le che, pressioni... Che aveva perso la voglia di fare il suo lavoro e ha cominciato a cercare dei trucchi. Però uno che, come dire, si è scavato la fossa con le sue mani, perché se lui fosse arrivato ottavo all'Olimpiade, cioè questo terrore del giudizio che lui che lo accompagna da sempre... santo cielo, ma chi l'avrebbe crocifisso? Voglio dire, il campione olimpico in carica, nessuno gli chiedeva di vincere oro, argento e bronzo. Mi sembra proprio uno che si è auto-boicottato pesantemente. Sì. E poi si è anche auto-accusato, si è preso tutte le sue responsabilità e qualcuno dietro di lui c'era, è stato zitto e lui stesso non ci ha raccontato tutto. No, certo, però io comunque rimango convinto che ci siano diverse facce sporche, non solo la sua, dietro questa vicenda. Assolutamente sì, però non ha fatto tutto da solo, e anche pur avendo una umana comprensione e compassione nei suoi confronti, la conferenza stampa che fece, a cui noi assistemmo online dall'Olimpiade, lui era in Alto Adige, quella dei pianti, delle lacrime, fu straziante, ma... ecco, forse è servita per liberarsi la coscienza, togliersi un peso, però continuo a pensare che non abbia detto tutto e non voglia dire tutto, e questo non mi piace, per quanto umanamente comprensibile. Sì, non so se la gente se la ricorda, fu questa voce. Io a fine anno scorso, dopo 3 anni molto difficili e le aspettative che avevo e... di tornare molto più forte di prima, non sono più riuscito a dire di no a questa decisione di doparmi per l'Olimpiadi nel 2012, e ho fatto questo grande errore. Ho fatto questa decisione da solo, perché se fai questa decisione devi deciderti se lo dici a qualcuno o no. Sono andato all'estero, di preciso in Turchia, da solo, e ho preso l'eritroponitina in farmacia. Sono voltato con me 1500 euro che ho cambiato in Turchia, e ho dato al farmacista e ho detto cosa voleva. Ecco, questa è naturalmente voce d'archivio, cui io credo fino a un certo punto, ti dico la verità, perché... Idem. Non Josefa, grande Josefa. Grande Josefa, certo. Però credo fino a un certo punto, perché dietro queste parole ha voluto comunque coprire certamente qualcos'altro che poi non è mai uscito. Vorrei parlare con te anche del disastro del nuoto, però prima ti voglio chiedere una domanda curiosa. Cosa ne pensi di questa fesseria di Bolt che vuol fare il calciatore? Beh, è la più grande fesseria dell'anno, cioè proprio Oscar alla fesseria 2012. Ma mi avesse detto solo questo: Oscar alla strunzata. Vuol fare il giocatore di cricket, sì. Vuole allenare il Manchester United dopo Ferguson, sì. Vuole fare l'astronauta, vuole fare il presidente degli Stati Uniti. Cioè, il DJ. Da quella bocca, dopo Pechino, è uscito di tutto. E sì. Anzi, l'Equipe si è divertita recentemente a fare 2 pagine. Di fesserie di Bolt, prendendolo amabilmente per i fondelli. Manco fosse Cassano. Esatto, ne ha dette di ogni, e ogni volta che apre bocca può veramente succedere di tutto. Sì, faccio il salto in lungo, no, il salto in alto, no, il salto indietro, no, il salto in basso, poi corro i 400, anzi no, perché mi stanco troppo, però forse faccio la maratona. Beh, a me i personaggi piacciono, mi fanno comunque divertire, ne abbiamo bisogno come dell'aria che respiriamo. Guarda, perché di banalità ne ascoltiamo fin troppe tutti i giorni. Vorrei però parlare del grande flop azzurro, questo. È difficile che succedano i miracoli, purtroppo, però ogni tanto succedono, quindi bisogna crederci sempre, però... come ho detto, non è che stiamo brillando a queste Olimpiadi, quindi non c'è proprio uno stato di forma. Io do tutto quel che posso, però insomma. Now I know you go on. La velocità italiana ha completamente cannato la preparazione olimpica. È di niente che qualcosa non va, e qualcosa comunque non è neanche andato secondo me a livello di lavori. Lei c'ha il tempo per prendere una medaglia, nelle braccia ha il tempo per prendere la medaglia e ce l'aveva anche nei 400. Deve riuscire a tirarlo fuori e nel momento giusto che è oggi. Dunque sappiamo com'è andata, no? Poi molta acqua è passata da queste voci di fallimento sotto il ponte del Tamigi, e Federica che dice no, vabbè, per un anno me la prendo comoda, me la prendo larga, e poi torno a Lucas, e poi adesso che succede secondo te? Come sarà il 2013 del nuoto italiano? Beh, io credo, per quanto riguarda Federica, sarà come lei ce l'ha raccontato, perché al di là degli eccessi, dei divismi, di una certa arroganza, a me Federica piace. E mi è piaciuto a Londra come ha perso. Cioè ero lì, le due gare in cui doveva salire sul podio e le due gare in cui è arrivata quinta, io ho visto veramente una donna esausta. Quando è arrivata e ci ha detto io non ne posso più, io voglio studiare l'inglese, io voglio andare in vacanza una settimana consecutiva, io voglio vedere i miei quando desidero vederli io e non una volta risicata. A me ha fatto una grande tenerezza quella ragazza, cioè ha prevalso in me la comprensione per una che da 20 anni sì, non fa che nuotare, sulla delusione per la campionessa, perché invece ci sono anche stati colleghi che lì in mix zone le sono saltati alla giugulare accusandola di non aver vinto quello che doveva vincere. L'avvicinamento all'Olimpiade, il continuo cambio di allenatore, ma certamente sono tutte cose sbagliate, non c'è dubbio. Cioè, ha sbagliato tutto quello che poteva, tutto, no? Quello che poteva, e non solo lei, anche il suo fidanzato e altri, forse ha sbagliato anche quello, altri colleghi. Però cosa vuoi dirle? Cioè, non lo so, io credo che l'anno prossimo lei cercherà di prendersi questi spazi di cui ci ha parlato, nuoterà il minimo sindacale e poi tra sé e sé farà una verifica e vedrà se ha voglia di fare lo sprint lunghissimo fino a Rio, dove arriverà attempata per essere una nuotatrice e dove rischierà di essere sbranata dai piranha del momento, esattamente come è successo a Londra. Io credo che una Federica Pellegrini, insomma, verso la fine della carriera. Beh, insomma, l'acqua si è messa decisamente in salita, per ovvi motivi generazionali, di logorio, senza muovere accuse specifiche a nessuno, di un logorio anche non da piscina, che comunque Federica non si è mai lasciata mancare. Non si è mai negata nulla. Quest'estate, quando ogni giorno si leggevano di baruffe tra lei e le ex compagne che l'accusavano, poi le rispondeva su Facebook, quell'altra twittava, insomma abbiamo fatto un pezzo sull'estate bulla di Federica, che non è piaciuto per niente al suo manager, però così stanno le cose. Ma nonostante il bullismo di Federica, a me continua a piacere. No, basta, no, veramente basta. È chiaro che possiamo sempre essere lì e pensare che qualcosa in più ci poteva essere, quindi ci riproviamo, ma adesso il mio sogno è essere a Rio per raccontare le storie degli altri. Anche questa. Un'altra, l'abbiamo nominata prima, altra campionessa che enorme, con Londra salutato, è stato un po' il tramonto di alcune nostre stelle che ci hanno accompagnato per molti anni, no? Josefa Idem. Beh, più di così non poteva dare. Anche questo a lei, cosa vuoi dire? No, cosa vuoi dire a Alessandra Sensini? Niente. Vai, ma sai, sono epoche che finiscono. Quante estate abbiamo passato con loro, dai. Assolutamente, sì. Vai lì, c'è del bello anche nel tramonto. Come no, le aspetti in mix zone. Ma poi sono, Carlo, sono donne intelligenti. Quindi quando Josefa è uscita dall'acqua con la sua tutina totalmente inappropriata per una donna di quell'età, e sudata fradicia con due ragazzini ormai adulti che che l'aspettavano, e arriva con quella faccia lì, con quel sorriso, e allarga le braccia e ti dice: Gaia, cosa vuoi che ti dica? Ci ho provato. E cosa le dici? Josefa, grazie, grazie di esistere. Sì, continuiamo a parlare di personaggi. Guarda cosa ti faccio vedere. Ho sotto gli occhi, ho in mano un articolo che hai scritto tu per il Corriere della Sera, riguarda Francesca Piccinini. Cosa mi dici di questo articolo? Cosa mi dici di queste dichiarazioni di Francesca Piccinini, un po' vessata, un po' emarginata, un po' mobbizzata? Ma ti dico che Francesca traboccava di cose da dire e ha mandato dei segnali, e non ho fatto altro che stare a ascoltarla. Cosa ero seduta davanti a lei con questo taccuino aperto, e lei che, piangendo, poi smettendo, eccetera, si è sfogata. Come dire, l'intervista più facile che ti possa capitare, cioè un atleta che ha voglia di raccontarti delle cose. Cosa ti ha raccontato? Giusto per chi non mi ha raccontato di una sua situazione di disagio in un contesto, non dimentichiamocelo, di un'altra atleta sul Sunset Boulevard, sul suo personalissimo Sunset Boulevard, per cui Francesca anagraficamente comincia a essere un'atleta attempata per le regole dello sport, e soprattutto un'atleta che negli ultimi anni di nazionale è stata profondamente a disagio, e a suo dire anche è stata curata male, aveva delle accuse specifiche da fare, ecco, da muovere all'ambiente nazionale. E quindi mi è sembrata triste, perché qualsiasi atleta che sia accomiata dalla nazionale in quel modo è triste, soprattutto con la storia in nazionale, che ha Francesca. Sì, poi è la parte più difficile, no, dell'essere atleta, sapere quando dire basta, perché non ci riesce nei tempi giusti quasi nessuno. Il grande disagio è quello lì, e come ben sappiamo i campioni che hanno saputo dire basta al momento giusto li contiamo sulle dita di una mano, nemmeno due. Anche perché poi magari ritornano, e il ritorno è più triste dell'addio stesso, e ne abbiamo chiari esempi. Sai, una delle cose che più mi ha colpito, ho ricevuto anche molte critiche per la mia posizione, ma forse sono stato frainteso, è stato la distruzione sistematica, scientifica, pubblica, la crocifissione di Lance Armstrong, ladro, farabutto finché vogliamo, falso mito. Però ho avuto la netta sensazione che sia anche qui vale poi il caso di in grande caso di Schwarzer, che questo, fino a quando era importante, popolare, faceva far soldi, era politicamente molto importante, è stato protetto da mille teste e mille mani. Quando non era più nessuno, è stato distrutto sulla pubblica piazza. Ma è uno sport che sappiamo giocare bene, questo della gogna mediatica, ecco. Poi, oddio, difendere Armstrong mi riesce difficile, l'ha fatta grossa, Carlo. Ha ingannato tutti per molti anni, che mi ha fatto specie è stata proprio la crudeltà con cui è stato, ma giustamente, perché è un imbroglione, un farabutto. Poi anche lì possiamo discutere di responsabilità politiche, certo, tra l'USADA, quindi l'antidoping americano, e l'UCI, che ha fatto orecchie da mercante finché ha potuto. Esatto. Quindi sono state battaglie politiche, però lui è stato messo lì, spogliato e crocifisso. Sì. Però mettiti nei panni dei colleghi, sì, sport e sport, poi la mano sul fuoco non la metto su nessuno, e nessuno sport avanza a pane e salame. Ma i colleghi che seguono il ciclismo vivono un disagio da anni che io non so come gestirei, non vorrei essere nei loro panni. E probabilmente in questa crocifissione a tutti i livelli, carta stampata, televisioni, eccetera, c'è anche, così, la vendetta per il tradimento, porca sì, miseria, sì. Io ti ho incensato per 7 tour che hai vinto e tu mi fai far sta figura e adesso non sarà giusto, però anche questo è molto umano da un certo punto di vista. Senti, Gaia, parliamo, visto che siamo nell'ambito dei personaggi, ti faccio qualche nome, eh? Fernando Alonso, la sua stagione, secondo me, io ho detto molte volte, la miglior stagione di Alonso da che fa il pilota. Non è riuscito a vincere un mondiale, però ha corso una stagione secondo me emozionante e perdente. Perdente per colpa della Ferrari, nel senso che a un certo punto il mondiale ce l'avevano in pugno. Sì, certo. L'hanno cominciato malissimo, ripreso, avevano conficcato le unghiette del cavallino di Maranello nel mondiale e poi se lo sono fatto. Cioè, ci sono delle responsabilità anche lì. Dopodiché Alonso, nella sua prosopopea, in questa metafora del samurai tremenda che si è inventato da un certo punto in poi, rimane un fuoriclasse assoluto, questo non discutiamo. Sì, sì. C'è qualcosa ancora che non quaglia tra Alonso e la Ferrari, perché lo dimostrano i risultati. Immaginati come quagliava tra Valentino Rossi e la Ducati. Sì, bella storia anche quella. Bella storia anche questa. Adesso Valentino Rossi rischia molto, secondo me. Rischia molto perché va a fare a botte metaforiche sportive con uno che è in casa sua, Jorge Lorenzo, è più forte di lui, si sente più forte di lui. Sostanzialmente va a fare la seconda guida con la missione di dimostrare che è ancora un grande pilota e di rompere le scatole a tutti. Beh, che poi, come dire, è l'habitat. No, ma ci vuole coraggio. È l'habitat di Valentino, uno cui le sfide non sono mai dispiaciute. Insomma, io lo vedo bene in questa nuova sua avventura e soprattutto spero che sia vero quando dice: se vinco il mondiale basta. Perché che cos'altro può fare? Cioè, uno che abbia il coraggio di chiudere al momento giusto, Valentino, ecco, almeno lui, che non ci faccia scherzetti, smetto, non smetto, faccio un anno di rally, poi torno alle moto, insomma, un'ultima fiammata alla grande e poi come tutti dovrà inventarsi una vita. Sì, e sarà un altro di quei personaggi, sono mosche bianche che quando smetterà, insomma, ci lascerà un po' in braghe di tela e con la necessità di farci bastare dichiarazioni di plastica come quelle che siamo abituati ad ascoltare, no? Un altro invece che ha smesso da campione del mondo, sempre per quanto riguarda il motociclismo, è Max Biaggi. Lui lo ha fatto in modo un po' strano in realtà, sì, perché doveva continuare a correre e poi invece ha deciso, vabbè, niente, pianto lì, smetto con la medaglia al collo. Ma Biaggi non è mai stato simpaticissimo, posso dire nemmeno la verità. Nemmeno a Valentino. questo, ma lo sappiamo, ma ha fatto del bene al movimento intero. Assolutamente, questo, sì. Questo una dualismo, grande rivalità. Questa, ma giusto così. Però secondo me in questo caso ha scelto il tempo giusto. Poi non so se i motivi reali quali siano, però ha scelto il tempo giusto. Io ho la sensazione che conti molto un certo lavorio ai fianchi della moglie o della compagna, non so se sono sposati. Però anche in questo, cioè, un pilota, capito, questi poi delle moto duri puri che corrono anche se sono sfasciati, si hanno la frattura alla tibia, al perone, che dà ascolto alla sua donna e insomma c'ha dei figli e comincia a fare dei ragionamenti un po' che vanno un pochino oltre il pistone e la biella, ammesso che la moto abbia i pistoni e le bielle, non mi dispiace, insomma, il vecchio Max sentimentale. E per fortuna c'è un altro che ha detto basta dopo lunga agonia, Michael Schumacher, no? Alleluia. e sinceramente non se ne poteva più, no? Sì, abbondantemente ormai, sì, uno di quelli che, ecco, avresti sperato che mai tornasse sui suoi passi per non sporcare la leggenda. Ma sai, insomma, quelli che lo conoscono bene dicono che effettivamente non sapeva cosa fare, o odia la moglie o non sapeva veramente cosa fare nel giardino di casa sua. Odiare Corinna è difficile, cioè una moglie che tutta la vita che ti lascia fare i comodi tuoi, dubito che una volta a casa l'abbia costretto a mettersi le pattine, a fare la polvere. era sicuramente una questione di noia e poi di questa assuefazione a questa adrenalina che si iniettano con ste corse, che io credo che, insomma, quando uno diventa grande basta, ecco. Sì, quando diventa grande basta, quando diventa vecchio basta, a maggior ragione. Ma no, ma anche lui, anche lì ti dico, ha avuto, cioè ci vuole coraggio a sporcare un mito. Guarda, a rovinare un mito, a scalfire un mito, a scendere da quel piedistallo, ci vuole coraggio. Quest'anno a Roma ho fatto un'intervista a Federer che è finita con una supplica personalissima. Lui mi ha guardato con un misto di compassione e divertimento. Gli ho detto: ti prego, quando smetti, smetti per sempre, non tornare dopo 2 anni e poi ti fai battere dal numero 150 del mondo. Rideva molto, ma insomma non so bene cosa gli frulli per la testa. Tutto ciò che riguarda il mercato sinceramente non mi riguarda, perché io l'ho detto che io voglio rimanere a Manchester e starò a Manchester. Poi non è un trucchetto di Mino, io rimango a Manchester, quindi rimango a Manchester. Se Thiago Silva viene al Manchester City, di sicuro siamo più forti. Vabbè, anche qui voce d'archivio, perché poi vediamo. Però era giusto per inquadrare il personaggio Mario Balotelli. Ti piace o no? Gaia Piccardi. Ti ho risposto? Sì, mi ha risposto. Non ti piace perché? Mi incuriosisce, mi affascina, perché per la sua complessa banalità alla fine, per la sua storia personale che affonda le radici, insomma, in una situazione familiare tosta, perché non deve essere una bella cosa essere abbandonati in ospedale, eccetera, eccetera, insomma, tutto quello che sappiamo. Sì, gioca un po' a fare il bullo del quartiere. Sì, beh, la sua maschera, la sua strategia di sopravvivenza nel duro mondo del calcio, insomma, lo vedi che è una recita nella quale è totalmente immedesimato e che a volte funziona, perché o intimidisce gli avversari, o perché, insomma... Però il ragazzo come giocatore non è un bluff. No, secondo me è un grande giocatore. Non è un bluff e questo mi piace. Non è un prodotto del marketing, non è di plastica e questo mi piace. Sono anni che, diciamo, va disciplinato, no? Bravo che ci riesce. Secondo me il Milan potrebbe essere un ambiente buono. Secondo me va responsabilizzato, e lo responsabilizzi facendolo giocare, facendolo come in nazionale, no? Facendolo sentire parte di un gruppo, perché lì si è disciplinato per quanto poteva e si è regolato da solo ed è stato funzionale alla squadra ed è stato un giocatore importante. Se tu lo lasci ai margini non puoi pretendere di disciplinare un personaggio così. Sono d'accordo. Perché è uno che ti dice: non mi fai giocare e io vado a escort e io faccio tutto quello che mi pare e io faccio tardi e fumo e ne faccio di tutti i colori, tanto non mi fai giocare. No, l'unica mia perplessità è che l'esperienza della nazionale è sempre un'esperienza a termine. L'europea dura un mese, incluso il ritiro, il mondiale dura un mese, il prossimo se ci andrà. Giocare in un club è diverso, cioè devi responsabilizzarti tutti i giorni, non 30 giorni e cominci a fare il countdown pensando già alla prossima cavolata da fare. Però l'ambiente Milan, a differenza di altri ambienti in cui Mario ha bazzicato, secondo me potrebbe essere buono per lui, perché il Milan è una società che ti mette dei paletti. Certo. Ecco, la fuga dal ritiro al Milan diventa più difficile. Sì, diventa più complicata. E è vero che non ci sono più i senatori di una volta, per cui se Mario venisse a giocare nel Milan di Gattuso... Ecco, rischierebbe sicuramente il setto nasale, la testata di Rino dopo pochi minuti dal suo arrivo. Però, insomma, Galliani è uno che poi i giocatori li sa tenere. Certo. Un altro personaggio di cui io sento profondamente la mancanza nel nostro campionato è Ibrahimovic, perché anche qui vado un po' controcorrente, sta sulle palle a molti. A me Ibrahimovic è sempre stato simpatico, ma non una simpatia ovviamente di quelle che ti fanno ridere, però comunque uno che ci mette la faccia, che sa essere un cavallo selvaggio. Guarda, io non che dice che voglio dire, vuole apparire anche più cattivo, sì, e più duro, e più duro di quello maschera, che è. Un'altra spessa, maschera, spessa, quattro dita, sì sì. Io lo odiavo, poi mi hanno costretto a leggere, per fare un pezzo con lo scrittore, il libro che ha scritto, sì? Io Ibra. Sì. Ecco, lì devo dire che ho capito delle cose, che ho appreso anche delle cose che non sapevo, e da allora, ecco, non, simpatico no, però lo guardo con occhi diversi, perché in quel libro è una delle poche biografie, insieme a quella di Agassi, che rimane di una spanna superiore a tutte, inferiore solo forse a Anna Karenina, nella mia personalissima classifica, che si è raccontato e si è speso con generosità in questi libri, che sennò vengono fatti veramente solo per riempire gli scaffali delle librerie. Se voglio fare male a qualcuno lo faccio, non è un problema. Non è un problema, no. Raccontami invece un po' del libro di Agassi, che è stato che è veramente un grande libro. Il libro di Agassi è scritto da un collega eccezionale, secondo me, che è un ex giornalista del Los Angeles Times, Möhringer si chiama, premio Pulitzer non a caso, e che ha scritto dei libri strepitosi anche come romanzi. Il Bar delle Grandi Speranze è un piccolo capolavoro, secondo me. La bravura di Agassi è stata quella di mettersi nelle mani di questo signore, che ha raccontato un centesimo di quello che Agassi aveva da raccontare, soprattutto in materia di doping, secondo me, e ha raccontato con rara maestria la vita bislacca di questo americano di Las Vegas, tamarro fino al midollo, vessato, realmente vessato dal padre. Insomma, alla fine, se ci fai caso, molti fuori classe sono dei casi umani. Molti, e aggiungo, molti tennisti sono dei casi umani. Molti tennisti vengono quasi chiusi nella gabbietta, e lasciati uscire dai genitori solo per allenarsi, e vessati, e quasi maltrattati. Sì, sono tante le storie, tu lo sai meglio di me, di tennisti o di tenniste che hanno vissuto in questa maniera. Assolutamente. Perché? E forse perché il tennis ti costringe, per le sue dinamiche, a andare via da casa prima ancora di quando lasciano casa i calciatori, per dire, perché molti calciatori crescono nel loro ambiente familiare, magari vengono messi in collegio, cominciano a frequentare le giovanili, però insomma è difficile che uno venga sradicato dal suo paese. Pensa a una Sharapova, che pure non considero una fuoriclasse, ma una buona giocatrice, estirpata dal paesello, già scappata dalla nube di Chernobyl, sì, quando la mamma era incinta di lei, estirpata dal paesello, trapiantata all'Accademia di Bollettieri, non vede la madre per 2 anni per problemi di visto della madre, quando la vede, la rivede, non la riconosce. E io mi immagino, ogni volta che vedo la Sharapova e come dire, la non empatia che emana, ultimo caso questo dell'esibizione a Milano, anche se è meno peggio di come sembra, io non posso fare a meno di pensare di quando lei ha rivisto questa mamma dopo 2 anni e non l'ha riconosciuta. Io l'ho vista e mi sembrava una parente lontana, racconta, ma io non ho subito riconosciuto mia madre. E come fai a rimanere indifferente di fronte a un fatto del genere? Poi è chiaro che ognuno trae da queste sue vicende familiari private la scintilla per ottenere una rivincita sul papà, sulla mamma, sulla società, sulla famiglia, sulla vita di stenti che ha condotto fino a quel momento. Però tornando ai tennisti, sono tantissime le storie di grandi difficoltà, cui si sono Borg a Wilander, insomma, guarda che il rapporto, storie di grande disagio dopo la professione. Forse non c'è nessuno sport come il tennis che racconta storie di disagio di questo guarda tipo. Che il rapporto tra Nadal e lo zio Tony è una cosa da psicanalisi, ma sì, da Freud, cioè, ma seria, siamo ai confini veramente. Dai genitori molte volte hanno pensato di toglierglielo, perché lo racconta lui nel libro, che pure è un libro mediocre, ma insomma l'unica parte interessante è quella in cui lui racconta il rapporto con lo zio Tony e le vessazioni a cui è stato sottoposto. Sì, probabilmente il tennis è uno sport che ti consuma a tal punto, dal punto di vista mentale, che prima o poi la paghi in una maniera o nell'altra. Ma sempre, guarda, prima o poi paghi. La paghi, i nodi arrivano al pettine. Mi sembra che Nadal sia già alle prese con questi nodi, se non altro dal punto di vista proprio del logorio, del fisico e della cartilagine delle ginocchia, che non c'è più. Certo. Senti, torniamo ad altri personaggi che ti piacciono oppure no. Uno nuovo, Stramaccioni, ti sembra, ti piace o ti sembra un po', anche lui un po' bullo, forse fa un po' il verso di Mourinho, forse. A me epidermicamente è simpatico da quella volta in cui l'ho sentito fare l'imitazione di Cassano, qualcosa di imperdibile, ho detto questo è uno simpatico vero. Poi adesso secondo me gioca un po' con il con questo ruolo da, da non mi offendete perché sennò vi rispondo per le rime. Beh, sì, è spirito, ha una sua ironia, Stramaccioni, pur in questa caricatura di Mourinho che ogni tanto si diverte, secondo me, a rifilarci. Sì, io appena l'ho visto ero indeciso se assomigliasse più a Mourinho o a Mr. Bean fisicamente. È un bel incrocio. No, ma soprattutto, se ci fai caso, lo sport negli ultimi tempi sta offrendo materiale a fuori classe come Crozza o l'imitatrice, gli imitatori di quelli che è il calcio, cioè, per cui alla fine traendo materiale dal reale, sì. Conte, Stramaccioni e nascono delle imitazioni straordinarie, per cui voglio dire, se non in ci fosse in principio fu il trap o Sacchi o Lippi e poi se non ci fosse buon materiale non ne caverebbero nulla neanche loro, e poi, come dire, una certa prosopopea, una certa arroganza mi sembra che faccia un po' parte del mondo calcio e anche di una modo, insomma, se Stramaccioni non si pensasse Mourinho sarebbe ancora allenare gli allievi della Roma, non la primavera dell'Inter, con tutto il rispetto per gli allievi della Roma. Sì, sì, senz'altro. Senti, rimaniamo sul calcio per chiudere, un altro personaggio che molto fa chiacchierare a questi microfoni, ha fatto rumore un giorno Vialli che lo definì paraculo, Zeman, ti piace o no? Anche in questo caso hai risposto. Mi ha un po' stancata, questa maschera sempre uguale a se stessa che indossa da anni, come dire, finché era il fenomeno, finché va a fare il miracolo a Pescara, questo rito, come tutti i ritorni, Carlo, come tutti i ritorni alla fine risultano un po' stucchevoli secondo me. Senti, per chiudere, dammi il nome di un personaggio per il 2013. In qualsiasi campo. Qualsiasi campo, ti faccio una domanda difficile. Molto difficile. Oh signor, su due piedi non mi viene in mente niente. Allora, atletica. Niente. Beh, a italiano lo vuoi? Sì. Beh, no, atletica, via. Tennis, Seppi, non direi che è un personaggio. Quincy, bah, vediamo. Paltrinieri, anche se all'Olimpiade qualcosa in più si poteva fare. Però Paltrinieri è sicuramente uno che vale. Avremo modo di verificarlo presto. Ci sono i mondiali l'anno prossimo. Appunto. Speriamo che qualche stella nasca di nuovo. Speriamo, presto. E presto spero che torni anche tu a trovarci, cara Gaia Piccardi. Grazie. Inviata del Corriere della Sera. Ragazzi, chiudiamo qui, grazie a Franco Piantanida in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani dalle 2 alle 3, tutti convocati.